qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Eccolo, eccolo. Dai che ci siamo. Mercoledì 22 febbraio, una data storica. Mentre lo 06491750 ci dà il benvenuto. Una scarica di trilli. Dicevamo anche questa, una data funesta, ma una data di lotta. Di lotta antifascista. Come antifascista era Valerio Verbano, di cui oggi corre il 32esimo anniversario del suo brutale assassino in casa. Come vi ha già annunciato di Elettrodo, che salutiamo, questo pomeriggio una grossa manifestazione nel quartiere di Montesagro ha attraversato le strade. Da via Monte Bianco in giro appunto per tutta la zona. Facoltà di igiene questa sera. E non ci abbiamo nemmeno un flyerino qua sotto mano. Dicevamo facoltà di igiene, università La Sapienza. Iniziativa proprio per finanziare quella che è la ricorrenza del 22 febbraio. Ci stanno pure parecchi DJ. Chissà se sono contenti che li chiamo così. Vabbè, quelli che mettono i dischi a Radio Onda Rossa. Fino a tarda notte, quindi probabilmente ci passeremo anche noi al termine di 25 o'clock. Vi ricordiamo brevemente quelle che sono le coordinate di questa radio che state ascoltando e la coordinata, la connotazione principale che ci piace sempre di ricordare a tutti, che questa è una radio che vive libera da padroni e pubblicità. E lo fa attraverso una sorta di equilibrismo incredibile, barcamenandosi fra le spese correnti e la voglia che abbiamo di fare cose, di far bella questa radio. Tutto ciò è possibile grazie a tutte e tutti voi, cioè a tutti coloro che l'ascoltano e la sostengono, e grazie ai compagni e alle compagne che ne condividono il progetto editoriale. Dicevamo, per far questo è opportuno, è necessario essere sempre vicini alla radio, anche in termini di sostentamento economico. Quindi www.ondarossa.info è il sito della radio. Cliccando su sostieni è possibile trovare tutti i modi per sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Stare vicini alla radio significa anche che la radio va in giro per la città a fare proprio iniziative di sostegno per le sue finanze ed occorre, come fate sempre, venire a curiosare, a vedere, a divertirvi, ad ascoltare, a starci. Quindi www.andarossa.info. Se vai su Ascolta la diretta è possibile ascoltare in streaming la radio. Vi ricordo comunque il numero del conto corrente postale di Radio Onda Rossa, 6180 4001, tente stare Radio Onda Rossa, appunto, via dei Volsci 56 00185, Roma, San Lollo. E prima illuminava di rosso la redazione della Radio Più Rossa, che c'è lo 06491750, il recapito telefonico di Radio Onda Rossa. Da sempre fate ciò che sapete è giusto fare a quest'ora, con questo numero, e noi rilasciamo praticamente per 10 minuti. ...1975... dicevamo, 1975 dall'Australia. Loro erano senz'altro fra i primi sperimentatori e manipolatori di suoni. Questo disco si chiamava Gazzius, più o meno si dovrebbe leggere così. In realtà non è fra i loro più belli, è una sorta di fusion con molti fiati e molto jazz dentro. Esclusione questa terza traccia che si chiama Percolation Part 1. Già nella parte 2, traccia successiva, c'è un cambiamento di ritmi e di stili. Ve lo faccio comunque ascoltare. Una sorta di math rock, però fatto appunto nel 75. Gong. Lasciamo David Allen e i suoi Kong. Facciamo un salto fino al 2011, quando esce questo secondo lavoro per i Butless. Ovvero David Konopka, Ian Williams e il celebre John Strainer. Tyndall Braxton è uscito dal gruppo dopo l'uscita di Mirrored, un disco che abbiamo sentito già da queste parti in maniera estensiva. Ora questo secondo lavoro, dal quale traiamo la prima traccia, Africastle. We'll be right back. Battles. Gloss Drop, il loro secondo lavoro, Afric Castle. Sì, sono proprio sciroccati, Il commento giusto era quello, non ci veniva la parola. Fulminati. Thank you. Non è un ringraziamento, ma sono loro degni compari. Vengono da Baltimora. E questa è la loro Strange Hall, quinta traccia. Da loro Golden Worry, andiamo indietro di un paio d'anni per l'uscita di questo CD, io direi da capo, perché merita. Con questo organetto buontempi. Da capo, dai. We'll be right back. E ci siamo. E dicevamo la scorsa settimana, anzi due settimane or sono, che c'era un fantasma che si aggirava per gli studi, e adesso il fantasma si manifesterà in maniera così impressionante per tutte e tutti voi. Vai, manifestati. Buonasera, non abbiate paura. The Ghost. Allora, dicevamo, lui ci accompagnerà per un po' di puntate insieme a noi, per una conduzione a più voci e a più scalette qui a 25 O'Clock. Mentre continuano sotto la nostra voce i Thank You, che appunto non è un ringraziamento, ma è proprio il titolo del gruppo. Commentavamo prima appunto che Thank You nascono un po' come, in qualche misura, molto ispirati dai Battles in precedenza, da Baltimora, e però si notavano alcune differenze poi in realtà ben... atmosfere più lisergiche. Sì, esattamente, atmosfere più lisergiche e un'emotività maggiore che invece magari nei Battles viene un po' così soppressa, nascosta dentro un tecnicismo esasperato. Penso sia uno fra le formazioni più tecniche che abbia mai ascoltato, comprendendo i Tool o di quanto altro vi possa venire in mente di tecnico. Ancora andiamo appunto su sonorità che appunto della tecnica fanno la loro forza, una tecnica però che deve essere associata per forza di cose alla follia, perché questo è il filo conduttore di questa notte, e loro sono praticamente il capostipite. Forse è difficile parlare di capostipite, perché poi appunto ci arriveremo probabilmente alla fine della scaletta al vero e proprio capostipite di tutta questa faccenda. Una scaletta e una selezione pensata a colui che infila due ruote dentro la cunetta, cioè il nostro Mati. Guarda quando fa marcia indietro. Jerry Reed era il cantautore che fece per la prima volta Amos Moses. Rhinoplastic è un disco praticamente di cover di loro stessi e di altri da parte dei Primus. Sono loro i mattacchioni stavolta. Amos Moses. Sit down on the mamas. Make it count, son. matti. Questi sono i più matti di tutti, eh. Li abbiamo visti qualche mese fa in concerto dal vivo qui a Roma. Che animali. System might beat you in, but I ain't about that kind. Answer me with the rhythm of a body that was born to lose two times. They may try to hide, but they have to have some more dead sense. You might be right, like a pony to win. Poisoned and in not one crime. Mix both down cross, sticking better the line. The flavor might be missing, but he acts to cross that anyway. You can bet he could fiddle with the promise and the power of another day. Questa è la versione rimaneggiata da Buzz Osborne e soci. Oggi con due batterie spaccano un vero autentico muro di suono. E diciamo, questa è la versione rimaneggiata di Revolve da Electro Retard, che dovrebbe essere del 1995 il disco, se non andiamo errati. Anche questo è un disco di cover, e lì e qui copiano loro stessi, rimaneggiano questa che è la versione dell'anno prima, del 1994, dalla strega Stoner Witch, Revolve, di nuovo, versione integrale, originale, Melvins, e poi la parola al fantasma. 87.9, questa è la voce del fantasma. Abbiamo ascoltato Paul Chain con un pezzo assieme a Lee Dorian di Touching from Satan, staccandosi dal demonio, e lui torna col demonio con questo viaggio all'inferno, Voyage to Hell. Adesso ci ascoltiamo i Sam Vitus. Station in realms of rage, galactic snake, E siccome era il primo missaggio preciso, lo mandiamo da capo, dai, come again. We'll be right back. dopo i Senvitus che ci parlavano di questo stallone bianco che cavalca nelle vene e che lascia un alone maligno dentro di noi, chissà cos'è. Abbiamo ascoltato gli Sleep da Holy Mountain, che è ancora in sottofondo, un macigno. E sempre la stessa energia dagli Sleep di Matt Pike. Ci ascoltiamo un altro gruppetto, Eye on Fire. Time. sì, Matt Pike, come il lupo che perde il pelo ma non il vizio. Un macigno anche con questi Eye on Fire. Siamo sempre su Radio Onda Rossa 87.9. Uno spirito un po' più pesante questa sera. Abbastanza pesante. We'll be right back. sciacallo mascherato, il manipolatore, il maestro delle parole, il cade macchia, il corpo, significato di informazione che non si è delusionato, si manipola, non è che si controlla. 87.9, Radio Onda Rossa, la radio libera. Suicide, hope to circle in the blood. Con Fefo stavamo commentando questi americani, i Plesso Skulls, che devono partire con questi assoli squagliati, magnati, gli americani megalomani. E invece adesso ci andiamo ad ascoltare un gruppettino di inglesi. Vediamo se sono più o meno magnati dei fratelli americani. Thank you. qui ci si perde in chiacchiere, ci prende la sprovvista. Ebbene, con questi suoni, quelli che avete ascoltato prima degli Unsane, l'ultima traccia, fateci un po' l'abitudine, perché per un po' di tempo faranno parte di 25 O'Clock. Aggiungiamo quindi un pizzico di Doom. Di trash metal. Comunque gente che proprio tutte le rotelle a posto, il cervello proprio sano, le connessioni neuroniche belle ordinate, non è che ce le ha tanto. Questo è il grezzo, rude suono degli Unsane. E prima abbiamo ascoltato la loro Committed. Ci rallentiamo notevolmente, restando però estremamente acidi. Andiamo a un'uscita del 2010, The High Confession. Dead Tenement. La loro lunghissima quarta traccia, ma ci parliamo sopra, eh. On un saluto al nostro Carmelo, che ha girato un po' per la città. Gli abbiamo chiesto pure notizie per quanto riguarda la festa, l'iniziativa di sottoscrizione che c'è all'università La Sapienza Igiene. C'è ancora tanta gente, eh? La notte è appena cominciata. Questa è la lunga e sofferta enunciazione degli High Confession. Dicevamo, questa sera all'università per la nuova generazione di giovani resistenti, e poi sabato prossimo all'Archimede con l'apposizione della targa in ricordo di Valerio Verbano in quel dell'Archimede, la sua scuola superiore. Sabato stesso invece manifestazione nazionale da Susa Bussoleno in quel della Val di Susa. Sono esauriti i posti che stavamo prenotando qui per i pullman che avevamo previsto per le partenze da Roma, quindi diciamo sono ferme le prenotazioni a quanto effettuato fino a questo momento. Vi dovete attrezzare quindi per conto vostro, organizzarvi per raggiungere la Val Susa. Noi non siamo più in grado di dare posti liberi sui pullman. Che siano finiti i posti appunto sui pullman, però non ci priva di invitarvi ad andare su in valle, perché sarà dura per loro. Mezzanotte e 30, il nostro fantasma ha smesso di aleggiare dagli studi della radio. We'll be right back. si accosta e più si asprezza. Mamma mia, come sono mangiato le parole. Dicevamo, più lo ascoltiamo e più lo apprezziamo questo Turning Lead into Gold Sweat, The Hype Confession, a Onda Rossa 25 o'clock. Tempi di lacrime e sangue, ci dicono. Ci dicono che la colpa è la nostra, perché siamo dissennati. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Ma magari avercele le possibilità è una vita che ti travolge e ti porta via. Un gigantesco messaggio pubblicitario che ti invita ad acquistare tutto ciò che non ti serve. Lacrime e sangue ne abbiamo già versate da sempre. A 00:33 non possiamo che unirci a coloro che hanno la sveglia alle 6. Mamma Gina, un altro matto, Steve Albini e gli Shellac, sempre per quello che casca con due ruote dentro le cunette. She's probably dancing with you. She liked to dance. She would have liked you. When she heard you died, my pretty girlfriend cried and cried and cried and cried and cried. She liked to dance, and she would have liked you. Bob Weston, Todd Trainer, Steve Albini, Shellac, Mama Gina. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Fellow Americans. He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. There's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people. Sometimes I just get tired of you, honey. It's that's your hair spray or something. Plastic people, oh baby, you're such a drag. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people. Take a day and walk around, watch the Nazis run your town, then go home and check yourself. You think we're singing about someone else, but you're plastic people. Oh baby, now you're such a drag. Love will never be a product of stesso forse il papà e forse anche la mamma. Di tutti le mattacchione e i mattacchioni. Perché un po' la musica fuori di senno. Abbiamo voluto caratterizzare questa notte di Onda Rossa di 25 o'clock sempre pensando a colui che butta due ruote del pandino dentro la gommetta di cemento e per fortuna che era un pandino. Republican Party. E questo invece è il cervello, la mente, il senno, le connessioni. Ce l'avevano un po' consumate dall'abuso di additivi chimici. Questo è un concerto live improvvisato in strada 1968. David Peel and the Lower East Side. I like your marijuana. Make me president of the United States. And I promise you I'll pardon every chicken. E ritorna questo president of the United States. Make me president! And I won't even tell him I'm Jewish. Perché come diceva Frank Zappa, I am a freak angry baby. I promise you. Sono un freak incazzato. Without taxes to Mexico. Sì, Daddy diceva. I like marijuana, you like marijuana. Oh, 0649175 anche se mezzanotte 44. Runaway God to leave home for marijuana. Remember the teeny bop sniffing airplane glue. Marijuana. He used to freak out in Central Park Zoo. Marijuana. I wanna get high, but I never know why. Here comes the cop I got to say goodbye for. Pusher on the Lower East Side for marijuana. I want to be a pusher, got to get you high on marijuana. It's my life and I do what I want. Marijuana. It's my life and I do what I can't. Marijuana. I want to smoke pot and I want to smoke. But here comes my father, the marijuana cop. The head questo ragazzone se la cantava con un bel cannone in mano. My father, the family is mourning. Ancora un live che parte sparato. 10 minuti alla mezzanotte e poco più, 25 o'clock ai controlli, Radio Onda Rossa 87.9 0649 1750, il recapito telefonico 61 80 40 01, è il numero del conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. John Spencer Blues Explosion. Sarà incagliato. Da capo. Col V. Dal vivo. Confronto questi suoni che non sono affatto puliti. Congregating sound. facing up what's challenged us and never turn it down. A washing self-achievement or underneath our hope, we'll pick up right where we left off the last time that we spoke. Constellations return unto this well, sharing here this birthing place under the mother's spell. Don't roll it in a carpet, don't leave alongside the road. We'll pick up right where we left off the last time that we spoke. Mentre spigne pompa il basso, per quanto riguarda Gonja Sufi versione remix, Aging. Remix di Dumb Man. Poc'anzi abbiamo ascoltato Fort Campbell. Del buon John Lally. E nel cervello Fear Insecurity, un'antenna che manda onde nel cielo con scritto War, War. È un personaggio tremante. Com'era quella storia? Io non ho paura. Un senso di insicurezza, appunto, che ci accompagna nelle nostre vite, dalle prime educazioni di quando nasciamo. Fino alla morte, alla concezione che ci siamo fatti della fine. E ciò che salutiamo. Caso mai stassi all'ascolto. Daphne, Lisa e Fabio ci raccontano un po' di questa vicenda della paura e dell'insicurezza iniettata. A nostra volta ne diventiamo agenti propagatori di paure e insicurezze. Tranquilli. Vivete tranquilli, la vita è la vostra, non è di nessun altro. Anche se se ne vogliono appropriare, la mettono in produzione. Dagli, diamoci un taglio. Con questo, da Radio Onda Rossa, vi salutiamo per questa notte. La programmazione continuerà in compagnia della compagna automatica Zara. E riprenderà domani mattina alle 7.30 con la replica del GR del mercoledì. Alle 8 la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, gli aggiornamenti, le iniziative e le lotte che vengono dalla città e dal resto del mondo. Mamatrona che non è proprio alle 12, però insomma fa altro. Il giovedì mattina alle 13 il giornale radio, a seguire lo spazio comunicazioni e poi Visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. Attica Blues alle 16, alle 17 la Schiena del Sol. Generazione P alle 18, Profondo Rosa alle 19, il giornale radio alle 19.30, lo spazio comunicazione a seguire, Gypsy in Balkan CPT Music che farà fra la mezz'ora e l'ora, diciamo, mettemola così, di programmazione, a seguire la Cicogna Nera alle 21 con i suoni da ogni angolo del pianeta. In Noctibus Panis con le magie di Fagiolino e alla fine Apostasia a chiudere alle 23. Con questo abbiamo detto tutto, noi vi lasciamo, ovviamente il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano a condizioni di limitata libertà personale. Il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE e tutte le prigioni. A cui siamo costretti quotidianamente. Quelle più esplicite, quelle più sotterranee e sottocutanee. Con questo però noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Che sia d'auspicio. Bella così, Under Communist Moon. A risentirci a mercoledì.